البلاد طردوا الأجداد. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو. قالوا لنا قانون دولي قانون. Buongiorno Palestina. Dedichiamo questa 53esima trasmissione di Buongiorno Palestina a Suad Amiri, architetta e scrittrice palestinese, ed al suo ultimo libro che sta avendo un grande successo, Storia di un abito inglese e di una mucca ebrea. Ce ne ha parlato Suad ieri a Firenze, dove il libro è stato presentato presso il Giardino dei Ciliegi. Suad Amiri è nata a Damasco nel 1951 da madre siriana e padre originario di Jaffa, da cui era stato cacciato, era profugo. Suad ha studiato architettura all'American University di Beirut e all'Università di Michigan, specializzandosi poi a Edimburgo. Attualmente vive in Palestina, a Ramallah, nella Cisgiordania, dove insegna presso l'Università Bir Zeit. Ha fondato e dirige il Centro per la Conservazione dell'Architettura Storica Palestinese e tra il 1991 e il 1993 ha fatto parte delle delegazioni palestinesi per la pace in Medio Oriente. Suad ha all'attivo numerosi studi, pubblicazioni e libri, tra cui Sharon e mia suocera, tradotto in 11 lingue, e con la quale, con questa opera, ha vinto il premio Viareggio nel 2004. La visita di Suad al Giardino dei Ciliegi di Firenze è avvenuta successivamente al suo intervento a Palestine, il festival palestinese di 4 giorni che si è svolto a Roma dal 1 al 4 ottobre. Prima di sentire le parole di Suad, conviene dire 2 parole su questo festival. Allora, il festival è stato un festival di cultura palestinese, è stato di musica, danza, cucina, film, teatro, moda, poesia, ma, orrore, anche di dibattiti sulla condizione palestinese, tra cui un dibattito sul BDS, la forma di lotta pacifica, di boicottaggio per le sistematiche violazioni dei diritti umani compiute da Israele nei confronti dei palestinesi e della legalità internazionale. Era da spezzarselo, ma questa volta sono intervenuti proprio tutti nel tentativo di bloccare lo svolgimento del festival. Ambasciata israeliana, comunità ebraica di Roma e financo il centro Wiesenthal di Los Angeles, il quale per bloccare il festival lo ha chiesto addirittura al premier Conte. L'accusa da parte di questo coro era ovviamente quello di antisemitismo. Riguardo al centro Wiesenthal, esso ha un nome nobile che è quello del cacciatore di criminali nazisti, ma esso non è altro che un'appendice del governo di Israele. Perché questi signori in sostanza vogliono una cosa sola, che i palestinesi stiano zitti e che di Palestina non se ne parli. Se la resistenza palestinese si esprime in forma violenta, allora sono dei terroristi. Se si esprime in forma pacifica, allora salta fuori l'antisemitismo. In Italia c'è però anche chi ha la schiena dritta e il festival si è svolto in pace ed è stato un successo. Passiamo ora a sentire Suad Amiri, appena dopo la selezione stampa. Ciao, sono Marina e vi parlerò degli articoli che in questa settimana, come del resto in tutte le altre, abbiamo ritenuto opportuno pubblicare sul sito dell'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese. Ricordo che l'indirizzo del sito è www.amicizia-italo-palestinese.org. Allora, veniamo al primo articolo. A Qalqilia i vivai sono minacciati di estinzione dagli insediamenti israeliani. Questo articolo è stato preso dal sito dell'ISM, International Solidarity Movement, con traduzione a cura dell'ISM stesso, ed è un articolo del Palestine Information Center. Allora, alla fine del 2019 le autorità di occupazione israeliane hanno deciso l'espansione di un insediamento di Qalqilia per circa 200 milioni di shekel. Questo, se venisse attuato, significherà distruggere i vivai di Qalqilia con relativo furto di terre e imposizione di questa nuova ammissione. Tutto questo probabilmente per favorire il collegamento autostradale fra insediamenti e zona occupata nel 1948. Ora, c'è da considerare che i vivai sono la più grande opportunità di lavoro per i palestinesi nell'area di Qalqilia. Ce ne sono circa 53 e coprono l'80% della produzione di piantine palestinesi. Creano centinaia di posti di lavoro sia permanenti che stagionali. Quindi il problema è grande, considerando che questi vivai sono fonte di sostentamento per centinaia di famiglie che vi lavorano da decenni. Il secondo articolo riguarda invece Israele ed il trasferimento silenzioso dei palestinesi fuori dalla Palestina. È un articolo di Al Jazeera tradotto sul sito zeitung.info. Il sottotitolo dice: assegnando ai palestinesi uno status di residenza precario a Gerusalemme Est, Israele è riuscito a revocare e successivamente sradicare più di 14.200 palestinesi. Infatti, nella Gerusalemme Est occupata, Israele procede con una politica di trasferimento silenzioso dei palestinesi, cioè questo è un sistema abbastanza complicato che prende di mira i palestinesi della Gerusalemme Est occupata e riesce a farli trasferire per mezzo di revoca della residenza, oppure espulsione attraverso la demolizione della casa, ostacoli per ottenere licenze edilizie, tasse elevate, quindi sono costretti ad abbandonare la città. Israele ha iniziato questa politica ostile di trasferimento dei palestinesi da Gerusalemme Est quasi subito dopo il 1967 e la successiva occupazione della parte occidentale della città. E questa politica continua ancora oggi con l'obiettivo non tanto nascosto di prendere il controllo anche sulla parte est della città di Gerusalemme. Il terzo articolo riguarda la definizione di antisemitismo dell'IHRA che metterebbe a tacere la solidarietà. La fonte è l'Electronic Intifada ed è stato tradotto da Invicta Palestina. Allora, diciamo subito che cos'è l'IHRA? È l'International Holocaust Remembrance Alliance, cioè l'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto, che nel 2016 ha dato la definizione effettiva, la definizione pratica di antisemitismo. La definizione è abbastanza vaga, ma non è particolarmente controversa. La minaccia del linguaggio critico nei confronti di Israele invece emerge con gli 11 esempi successivi alla definizione pratica, gli 11 esempi che definiscono come la definizione dovrebbe essere applicata. Questi esempi, per esempio, estendono l'antisemitismo alla discussione su Israele, come se discutere su Israele negasse al popolo ebraico il diritto all'autodeterminazione. Oppure qualsiasi dichiarazione considerata delegittimante verso Israele, per esempio, e definirla un'istituzione razzista, viene considerata antisemita proprio per questa definizione. Quindi diciamo che quello che vuole evidenziare l'articolo è che la solidarietà globale con la Palestina viene minacciata da una definizione di antisemitismo che fonde linguaggio critico nei confronti di Israele con il fanatismo contro gli ebrei. L'altro articolo riguarda i palestinesi hanno bisogno di una visione alternativa. È un altro articolo da Al Jazeera tradotto a cura dell'associazione ed è di Haidar Eid, che è un professore associato presso l'Università Al-Aqsa di Gaza. In questo articolo il professore propone di preoccuparsi più che di criticare giustamente gli accordi di normalizzazione di Israele con Emirati Arabi e Bahrain, che comunque non sarebbe dovuta essere una sorpresa, di preoccuparsi appunto più di formulare un programma sociale, politico, economico alternativo a ciò che viene offerto dalle potenze imperialiste e sioniste, non solo per la Palestina, ma anche per tutto il resto del mondo arabo. E fa l'esempio di Nelson Mandela che quando le cose sembravano veramente buie per i neri africani offrì una visione alternativa in cui dice: ho coltivato l'ideale di una società democratica e libera in cui tutte le persone convivono in armonia e con pari opportunità. È un ideale per il quale spero di vivere e di raggiungere. E quindi Haidar Eid dice che l'alternativa per i palestinesi deve essere uno Stato democratico, laico, nella Palestina storica, in uno Stato in cui tutti i cittadini sono trattati allo stesso modo, indipendentemente dalla religione, dal sesso e dal colore. Questo Stato deve abbracciare il ritorno dei rifugiati e l'autodeterminazione. Entrambi un passo verso la soluzione delle questioni palestinese ed ebraica. E questo è ciò per cui il popolo palestinese dovrebbe lottare. Infine, l'ultimo articolo riguarda la destra israeliana che un cartello stradale alla volta sta cancellando l'arabo dalla città di Gerusalemme. Questo è un articolo preso dal magazine più 972 tradotto da Invicta Palestina. E ci dice che una campagna di attivisti di destra per eliminare l'arabo dai segnali stradali di Gerusalemme va di pari passo con i tentativi del governo di sradicare l'identità palestinese della città. Nella maggior parte dei casi, gli attivisti di destra hanno coperto il testo arabo con adesivi di campagne politiche appartenenti a partiti prevalentemente di destra e religiosi. In altri casi l'arabo viene semplicemente grattato via o coperto con vernice spray. Comunque la gamma di slogan e di adesivi usati per nascondere l'arabo dimostra che il messaggio che queste azioni veicolano è secondario rispetto all'atto stesso della cancellazione della scritta in arabo. Comunque nell'articolo ci sono diverse foto di esempio, sono molto interessanti. Per questa settimana è tutto, vi saluto. Giardino dei Ciliegi alla presentazione del libro Storia di un abito inglese e di una mucca ebrea di Suad Damiri. E in attesa della sua venuta siamo qui con Clotilde del Giardino dei Ciliegi, appunto, e alla quale vorremmo chiedere di parlarci dell'autrice e del perché hanno pensato alla presentazione di questo suo ultimo libro. Buongiorno, Clotilde. Buongiorno. Ciao, dunque noi conosciamo Suad Amiri dal 2007 perché venne a un laboratorio interculturale che allora il Giardino organizzava a Prato per giovani e come dire ci siamo conosciute allora e in seguito è sempre venuta per i suoi libri. Quando cioè l'hanno invitata alle case editrici perché naturalmente noi non potremmo, in Italia lei ha sempre trovato il tempo per venire da noi. Quindi all'appuntamento anche per questo libro che all'apparenza sembra una storia, come dire, giocosa, amorosa, in realtà poi, come sempre, attraversa la Palestina, le sue tragedie, il suo passato e il suo presente. E Suad riesce sempre, a mio avviso, con l'ironia a raccontare delle tragedie, perché appunto incomincia da questo amore giovanile che poi viene spezzato dalla Nabka, no? del 48, vengono divisi per sempre e quindi poi in realtà racconta quel passato della Palestina che pesa pesantemente più che mai oggi sull'oggi. Quindi, come dire, Suad perché è una scrittrice che amiamo ed è molto brava, Suad perché è la Palestina, questo è il motivo per cui la chiamiamo. Perché è venuta qui altre volte a presentare altri libri da voi? Quasi tutti l'ha presentati da noi, perché ha cominciato con il 2003, quello Sharon e mia suocera, che come dire, è stata un po' la scoperta, no, di lei, perché lei è un'architetta, sì, e dirige un centro di vacche per la conservazione del patrimonio. Lei ha sempre denunciato che oltre alle persone vengono distrutti anche alberi, paesaggi, animali e quant'altro. E esordì con questo romanzo in cui appunto era assediata, come dire, fuori da carri armati di Sharon e dentro dalla suocera anziana che pare fosse un tipo un po', diciamo, pesante. Ecco. E quindi incominciò a scrivere in chiave ironica queste giornate, insomma, pesanti perché insomma, con i carri armati, e aprì, come dice, un nuovo squarcio sulla Palestina, perché prima era solo di denuncia, in questa maniera diventa anche un modo, come dire, di sorridere, ma però è un sorriso che non oscura il dolore e l'ingiustizia. Questo secondo me è molto importante, ecco, della scrittura di lei. Certo, anche negli altri libri, anche Golda ha dormito qui, c'è sempre questo misto fra ironia e drammaticità del racconto. C'è proprio il problema della gente che è stata costretta ad abbandonare le case nel 48, no? E poi dopo sono stati considerati assenti dallo Stato di Israele e quindi impossibilitati a ricuperare le loro case, perché lei ricorda il padre che amava molto Jaffa e la madre, dovettero lasciare tutto, la contava anche i mobili, addirittura con le fotografie, insomma, tutto. E quando dopo tanti, tanti anni lui ha provato a tornare, c'era già naturalmente gli israeliani e non l'hanno neanche lasciato, insomma, rivedere la casa e il giardino, ecco. Quindi in ogni libro c'è sempre questo cuore politico proprio della Palestina, che mi sembra un po' abbandonata un po' da noi, direi. Ringraziamo Clotilde, ora aspettiamo la presentazione ufficiale quando arriverà Suad Amiri, e quindi alla prossima, grazie infinite, grazie ancora. وتعاشر الغير وتنساني أنا يا ظريف الطول يا بوس ضحوك. E adesso siamo con Suad. Buonasera Suad. Buonasera. E quindi parliamo del tuo libro, questo tuo ultimo libro, Storia di un abito inglese e di una mucca ebrea. È vero. Le storie di Shams e Subi, i protagonisti realmente vissuti, che hai saputo così bene ascoltare e narrare, ci puoi dire come è avvenuto l'incontro con loro e come hai tramutato le loro vite in un romanzo? Ok. Due anni fa ho pensato, perché la mia papà è da e la mia mamma sempre da Damasco, sempre ho pensato di fare un libro per la mia mamma e un libro per il papà, e sono andata con mio marito a Jaffa cercando la casa del mio padre, la nostra famiglia, e siamo stati cacciati da questa casa nel 48, Nakba. E per me, sono cresciuta in Amman, sempre sentito da questa casa. E ovviamente io volevo vedere questa casa, ma perché la mia papà, quando lui è venuta là, la famiglia che vive in questa casa israeliana non permettono il mio padre per entrare a casa sua, e lui era molto molto molto depressa. E così tornato in Giordania, e mai fu visto il mio padre piangere. Per me era un momento molto difficile. E per questo ho deciso di non andare a visitare questa casa. Anche se sono arrivata in Palestina in 81, non ho mai visto questa casa. E poi un giorno ha detto, vai Saad, la forza, vai a farlo. Sono andata col marito a Jaffa, cercando questa zona, lo stesso zona di Subhi, Manshiye, non trovato. Sono stata molto triste, depressa. Ha detto basta, Saad, vai a casa a Ramallah e basta, finisce la storia. Con il tassi, il tassista, sento che io che cosa dire a mio marito, e lui ha detto, ma signora, devi venire a incontrare, conoscere questa donna, la mia zia Shams. Ma ha detto, chi Shams, dimmi. Lui ha detto, la mia zia è 84 anni ora, ma ha una storia incredibile. E lui ha cominciato a raccontare a me la storia. Ho pensato, mamma mia, sono palestinese, sono la figlia di profughi, non ho mai pensato cose così succede nel 48. E sono venuta il giorno dopo. Arrivato in una casa molto piccola, ho trovato una donna di 84 anni, molto pacifica, molto calma. Ma quando lei ha cominciato a parlare la tua storia, non credo che a questa donna così tranquilla, tutta la sua storia ora, una storia incredibile come nightmare, non so come il nightmare in italiano, ma una cosa, una peggio dall'altra la sua esperienza, perché lei era solo 14 anni, ha perso la famiglia e così. E lei mi ha detto Subhi, un piccolo storia da Subhi, e sono stata molto interessata, sono andata a Giordania a trovare questo Subhi. Lui era 88, ora no, 92, 88, e ho parlato con lui. E lui, come lui ha lasciato Palestina nel 1950, ma per ora parla da Jaffa come vive ancora a Jaffa. E da lui ho imparato tanto. Senti, appunto, a proposito di Jaffa, nel tuo libro l'antica Jaffa rivive in uno splendore magico. Ricordo i colori del mercato, e le strade, le atmosfere particolari. Ecco, la città che descrivi nel tuo romanzo è quella immaginata o quella dei tuoi ricordi? No, quella era, ok, all'inizio, perché sempre il mio papà a Giordania, siamo diventati profughi in Giordania, ma sempre la mia zia, la mia papà, tutta la famiglia della mia papà parlano da Jaffa. Ma anche Jaffa era la più grande città in Palestina a quel momento, ma tutta la gente di Jaffa sono molto, non so, pensano così, Jaffa è la più bella città nel mondo. E ho sentito tutte le storie di Jaffa da mio padre, come era la città vivace, e anche quando ho incontrato Subhi, Subhi era come il mio papà, innamorato in questa città e parlando dalla souk, parlando dalla vita, anche la relazione con Tel Aviv, parlano dal mercati, dall'arancio, anche il pescatori e il mercante dell'aranci hanno un conflitto così. Ma lui davvero ho sentito molto cose da Subhi e anche dal mio papà. Ma dopodiché, prima di scrivere il libro, ho fatto ricerca. Perché lui dice, per esempio, che gli israeliani hanno bombardato Jaffa per 3 giorni. Io non ho saputo questo, anche se la mia papà era da lì. E ho cercato, fatto ricerca, ecco, e tutta la cosa che lui ha detto era vera. E così io ho costruito Jaffa dalla memoria del mio padre, dalla memoria di Subhi e dai libri. Ma anche io vivo a Ramallah, solo mezz'oretta, 40 minuti da Jaffa. Ma Jaffa è cambiato ora. Ma per questo, con la ricerca, ho costruito come era già fa prima dal guerra 48. E un'altra cosa che ho riscontrato nel libro, ti volevo chiedere, il fatto che tu cambi temi, atmosfere, anche timbri, nel senso accanto a immagini poetiche ci sono anche scene di orrore, di guerra, ecco, e quindi ti volevo chiedere, pensi che guerra e atrocità possono ancora lasciare spazio alla poesia e all'amore di cui parli nel libro? Sempre, l'amore vince nel mio libro, anche se gli ho perduto tutto, ma il libro era così, quando ho scritto il libro era come, io come architetta, quando scrivo faccio il disegno, davvero faccio il disegno da questo, come una teatro per me. E fatto una parabola così, ho detto questa parte già fa vive, e Subhi vive, e tutte le storie che Subhi mi hanno detto, la loro amore anche. E poi questa c'è una in cena, c'è un, e questo appunto l'apice era quando lui fa in questo festival, lui fa tutti questi, come si chiamano, il kites in italiano, colorati sulla, i fondali, no, il kites per i bambini quando fanno l'aquiloni, coloni, e lui ha fatto coloni colorate sulla follata per lei. Per me era questo l'immagine dell'amore. E dopo questo finisce il festival da Rubin, Nabi Rubin, come è qui in Italia in agosto, finisce, e dopodiché sentiamo le guerre. All'inizio, come ci sono combattiti tra gli arabi e gli israeliani, così, e diventa la storia di Shams. Ma non era possibile raccontare la storia di Shams in questa parte, perché questa parte era Jaffa vive, ma anche Jaffa era la città più aperta, con comunità palestinese, arabi, ebraiche, cristiani, greci, italiani, egiziani, libanesi. E per me era importante il primo parte che siamo lì, viviamo prima dal guerra, per capire come ha cambiato la cosa per il palestinese dopo 48, perché diciamo Nakba significa catastrofe, per noi catastrofe, perché abbiamo perso tutto, le case, la terra, il mare, tutto. E per me era importante fare così, e ovviamente che il stile di scrittura varie, le immagini varie, questa molto felice, questa triste, e per questo. Suad, nei tuoi libri ci sono racconti, però in realtà nei tuoi libri abbiamo anche testimonianze. Certo. Lo stesso Sharon e mia suocera, Golda ha dormito qui. Sì. Ecco, e in ultimo ti volevo quindi chiedere cosa possiamo imparare dalla testimonianza e dalla storia di Shaman Sessabi. Io, per me è molto molto importante raccontare la storia delle persone, della umanità, perché quando parliamo della guerra la gente pensa che ci sono grandi armati che sono in conflitto, in realtà no, noi i palestinesi non mai abbiamo avuto un'armata, mai, solo era... Loro dicono guerra, ma non c'era una guerra, c'era una forza ebrea molto, molto, molto sophisticated, con molto tipo di armamento nel mondo, come oggi, e contro civile. Per me, io sempre dico, quando parliamo da Palestina, non dobbiamo parlare da un paese perduta, parliamo di persone. Quando finisci tu leggere Sharon e mia suocera, ti ricordi il mio suocera, è vero? Quando finisce leggere, Sharon, mia suocera, c'è questa Huda, si è battuta per la sua casa ogni sabato, va lì. Ricordiamo, ricordiamo, perché io penso che la storia personale è più forte per noi. Perché numeri? Ok, c'erano 90% dei palestinesi erano cacciati dal loro paese, 90%, vabbè. Ma quando ti senti la storia di Shams, anche io non ho saputo che 40 questa, 48, c'era cose come che le racconto. Ma anche devo dirti che il palestinese dopo il 48 non vogliono parlare, non, perché sono stati in shock. Per esempio, la mia famiglia mai parlato delle cose terribili, mai. Solo che siamo perduta la casa, ma non sanno, c'è un rape, per esempio, c'è una... Non so, perché io penso quando la persona è sotto il shock non vogliono parlare. Ma ora, con la distanza di 70 anni, Shams può parlare. Grazie. Sì, in effetti la storia delle persone fa la storia grande. Dalle piccole storie si capiscono poi gli eventi e le politiche che coinvolgono le regioni, i territori, le persone. Suad, io ti ringrazio infinitamente e ci auguriamo e abbiamo la speranza di rivederti. Grazie, per il prossimo sempre. Tuo libro, che molto probabilmente avrai già nel cassetto, che aspettiamo di leggere. Grazie. E quindi tanto. Di nuovo grazie infinite e buon proseguimento. Grazie a voi tutti. Grazie. Ciao. Nonostante la giornata di pioggia e le restrizioni per il Covid-19, la presenza di Suad Amiri ha riempito i locali del Giardino dei Ciliegi al massimo della loro capienza. L'accoglienza è stata veramente calorosa. بيضحك لما بيبكي لما الطفل ببلدي يحكي لما بيضحك لما بيبكي يعني رسالي عنده بده توصل هيك الطفل بيشكي يعني رسالي عنده بده توصل هيك الطفل بيشكي يا هالعالم أنا محقي اسمع فكرة. يا أستاذ ويا معلمتي بعصاي ما بنفهم فكرة لا تحولوها سجن مدرستي حلوة تكون المدرسة أسرة لا تحولوها سجن مدرستي حلوة تكون المدرسة Prima di lasciarvi alla consueta rassegna musicale, vi ricordo che ieri sera si è inaugurato il Middle East Now, l'annuale rassegna cinematografica del Medio Oriente, che quest'anno si terrà a Firenze solo al Cinema della Compagnia. Sempre quest'anno, per l'emergenza Covid-19, è possibile seguire tutta la rassegna anche online con un semplice abbonamento di 10 euro. Per il cinema palestinese vi ricordiamo questi appuntamenti. Venerdì 9 ottobre il cortometraggio Selfie Zain di Amira Diab, un film palestinese del 2019 di 11 minuti. Sabato 10, sempre un cortometraggio, Maradona's Leg di Firas Khoury, Palestina-Germania 2019, 23 minuti. Il film è ambientato durante il mondiale del 1990. Sempre il 10 ottobre, un lungometraggio, Between Heaven and Earth, di Naya Nayar, Palestina, Islanda, Lussemburgo, 2019, 95 minuti, alla presenza della regista Naya Nayar e del produttore. Domenica 11 ottobre, il film di chiusura, Gaza Mon Amour, di Tarzan e Arab Nasser. È una coproduzione Palestina, Francia, Germania, Portogallo, Qatar del 2020 di 88 minuti. Il film sottotitolato in inglese e in italiano è l'ultimo film dei gemelli registi palestinesi Tarzan e Arab. Il film ha debuttato al Festival di Venezia di quest'anno. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo sempre alla stessa ora. Inshallah! Per la rassegna musicale della trasmissione di oggi vi faremo ascoltare Palestinian Dabke. La Dabka è una danza folcloristica popolare diffusa nei paesi del Medio Oriente, ma in particolare Libano, Siria e soprattutto in Palestina. Il nome deriva dal verbo arabo yadbuk, che significa battere i piedi per terra. La danza rappresenta l'amore per la terra, per il proprio paese e soprattutto l'unione tra le persone. A seguire ascolterete Oh This World, Oh Questo Mondo, un coro di bambini palestinesi che canta in arabo. Seguirà Palestinian Mushap, miscuglio palestinese, o meglio, un collage di canzoni della tradizione palestinese riarrangiate e reinterpretate da due giovani, Luadi Ahmaro e Nathalie Saman. I testi di queste canzoni risalgono almeno agli anni 20 e con questo bisogna capire che il modo di esprimere affetto era diverso da quello di oggi. Con queste canzoni è stato realizzato un video. Troverete il link al video con i sottotitoli italiani e quindi potrete capire il significato delle canzoni sulla trasmissione di oggi, la numero 53, naturalmente su Radio Wombat. Buon ascolto! صاحبي للي عاتبني عزالي سل القلم سلوارك وش حالي زالي انصب على العين خمار انطورين ماي انصب على العين خمار انطورين ماي يا ابو عيون اللي من الغزلان يسارق سبحاني يا ربي نقف انت خالق انصب على العين خمار انطورين ماي انصب على عن الدلعونة سار هلا هلا هلا غريبة وغريبة ما نقدم شوي على الخشب شوي العباده يجمع شاملنا يمي العيونه بيضحك لما بيبكي لما الطفل ببلدي يحكي لما بيضحك لما بيبكي يعني رسالة عنده بده توصل هيك الطفل بيشكي يعني رسالة عنده بده توصل هيك الطفل بيشكي يا هالعالم أنا محقي اسمع هالعالم كلماتي يا هالعالم أنا من حقي اسمع هالعالم كلماتي يا أستاذ ويا معلمتي بعصاي ما بنفهم فكرة يا أستاذ ويا معلمتي بعصاي ما بنفهم سجن مدرستي حلوة تكون المدرسة أسرة لا تحاولوها سجن مدرستي حلوة تكون المدرسة أسرة يا هالعالم أنا من حقي يسمع هالعالم كلماتي يا هالعالم أنا من حقي يسمع هالعالم كلماتي سكتوا لسانينا رح بيغنوا عيوننا عروسنا عروسنا الأطفال يحكونا بالعن في سكتوا لسانينا رح بيغنوا عيوننا أنا من حقي أحمل حلمي وما يوقفني عنف وحاجز ما يفتش حلمي اللي بالشنطة ويصبح حلمي مكتف عاجز على دلعونا أطفالي ضوء طيب يا ميريا حنا جيم رطيب يا هيل